L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, 29 giugno, era il 181esimo giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:37 e tramontava alle 20:49. La luna crescente sorgeva alle 14:31 e discendeva all'1:40. Potevate nell'orto oppure in vaso cogliere, piantare, propagare per talea o trapiantare aglio, carote, ravanelli, cipolle, lo scalogno, insomma, le piante a radice. L'altro ieri avvenne. ...1880, la Francia annette Tahiti. 29 giugno 1914, Gina Guseva tenta di assassinare Grigorij Efimovič Rasputin. 1934, la notte tra il 29 e il 30 giugno ha luogo la cosiddetta Notte dei Lunghi Coltelli, epurazione nazista degli oppositori di Adolf Hitler. 1976, le isole Seychelles ottengono l'indipendenza dal Regno Unito. 1995, lo Space Shuttle Atlantis si congiunge con la stazione spaziale russa Mir. 1996, la rivolta della prigione di Abu Salim. 2006, in occasione dell'appello di un detenuto, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare nel campo di prigionia statunitense nella baia di Guantanamo. 2007, l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense in tutti gli Apple Store alla stessa ora. Nel 2011 viene scoperta la quasar ULAS J1120+0641. 2014, l'ISIS autoproclama il suo califfato in Siria e nel nord dell'Iraq. Moriva il 29 giugno del 1940 a 60 anni a causa di una sclerodermia Paul Klee. Siamo in Russia nella prima metà del Novecento. C'è una tempesta politica prossima ventura che si annuncia e ribolle nelle fabbriche. C'è una dinastia reale estenuata dall'autocrazia impotente dello zar Nicola II e dalla morbosa religiosità della zarina. E poi c'era lui, c'era Grigorij Efimovič Rasputin, pronto a raccogliere l'angoscia da fine del mondo che pesava sui sovrani e sull'impero, intercettando il sentimento dell'apocalisse e trasformando in tecnica di regno e di governo. Queste dita, si vantava Rasputin, io tengo l'impero russo, ed aveva ragione. Come se la corte fosse stregata, un monaco analfabeta dall'istinto animale decideva di cambiare il capo del governo, di sostituire il ministro dell'interno, di nominare il direttore della polizia, di selezionare i candidati delle cariche pubbliche, scrutandoli semplicemente negli occhi, e suggeriva tutte le scelte allo zar. Ma chi era costui? Vi sono diverse incertezze su gran parte della vita di Rasputin, ma tuttora sinonimo di potenza, dissolutezza, lussuria. È stato un mistico russo, consigliere privato dei Romanov e figura molto influente su Nicola II di Russia. In particolare, dopo l'agosto del 1915, quando lo zar prese il comando nell'esercito della Prima Guerra Mondiale. Con un conflitto mondiale da affrontare, con un conflitto sociale in patria, perché ricordiamo che lì a poco ci sarebbe stata la rivoluzione, era piuttosto bizzarro che un monaco siberiano, quasi analfabeta, avesse raggiunto una posizione di tale prestigio e potere, e andava assolutamente eliminato. Il primo tentativo avvenne il 29 giugno 1914. Una donna, con il viso nascosto da un velo, si avvicinò. Credendo una nome indicante, Rasputin mise le mani in tasca, ma si ritrovò invece trafitto alla pancia da un profondo taglio di coltello. Le urla di Rasputin, gravemente ferito, allarmarono i presenti, che subito fermarono la donna. La mancata assassina si chiamava Gina Guseva. E la sua particolarità fisica più evidente era la totale assenza del naso, probabilmente perduto per una reazione avversa a una medicazione in età giovanile o probabilmente a una conseguenza della sifilide, una malattia all'epoca molto diffusa. La giovane, fervente cattolica, considerava Rasputin un pervertito e affermò di aver agito da sola. Cosa davvero improbabile, infatti gli inquirenti non le credettero. Ormai i nemici di Rasputin non si contavano più, e quasi certamente la mano di Gina venne armata da qualcun altro. La Guseva fu rinchiusa in un manicomio perché giudicata pazza, mentre il nostro Grigorich si salvò e si riprese egregiamente. Ma un paio d'anni più tardi, il 16 dicembre del 1916, l'uomo che si vantava di detenere l'impero nelle mani, avvelenato e trafitto dai proiettili, moriva a San Pietroburgo. Da questo delitto il primo atto che porterà a Lenin e alla rivoluzione. Si poteva finire ad Abu Salim, una prigione nei pressi di Tripoli, capace di ospitare migliaia di detenuti per mille motivi diversi. Solo alcuni erano lì per reati comuni. C'era chi era vittima della caccia ai religiosi ortodossi, chi era partito per l'Afghanistan per combattere i sovietici, chi era stufo di vivere in una dittatura che durava ormai quasi 30 anni. Si possono immaginare le condizioni di vita dei prigionieri, tra pasti quasi inesistenti e maltrattamenti quotidiani. L'affollamento del carcere faceva il resto. Fu così che nel giugno del 1996, quando ancora Gheddafi teneva saldamente le redini del potere in Libia, alcuni detenuti pensarono alla rivolta. La rivolta venne organizzata da due ex mujahideen che, approfittando di un momento di distrazione del secondino incaricato di consegnare i pasti, lo catturarono e utilizzarono le sue chiavi per liberare un'intera sezione del carcere. Le richieste dei carcerati erano chiare: un miglioramento delle condizioni di vita e soprattutto pasti decenti. La risposta del regime non si fece attendere e dopo aver finto di voler dialogare con i detenuti e condotto da parte i capi della rivolta per un presunto negoziato, il 29 giugno le guardie libiche si appostarono in posizione elevata rispetto al cortile dove erano riuniti migliaia di prigionieri, soprattutto prigionieri politici, e li coprirono di piombo e granate. Fu una di quelle battaglie in cui si spara da un solo lato. I 1200 morti vennero gettati in una fossa comune poco distante dalla prigione, che verrà rinvenuta solo alla caduta del regime. Quasar, contrazione di Quasi Stellar Radio Source, cioè radio sorgente quasi stellare, è un nucleo galattico attivo estremamente luminoso. Il nome deriva dal fatto che questi oggetti, la cui natura è stata controversa fino ai primi anni Ottanta, furono inizialmente scoperti come potenti sorgenti radio, la cui controparte ottica risultava puntiforme come una stella. Si ritiene comunemente che tale grande luminosità sia originata dall'attrito causato da gas e polveri che cadono in un buco nero supermassiccio. Essi formano un disco di accrescimento che converte circa la metà della massa di un oggetto in energia. Il termine quasar è stato coniato nel 1964 dall'astrofisico Hong Yi-Chu. I primi quasar furono scoperti con radiotelescopi all'inizio degli anni 60. Il primo spettro di un quasar, che rivelò numerose linee di emissione alle quali si misurò il caratteristico spostamento verso il rosso, fu ottenuta nel 1963. Una volta identificata la classe di oggetti, fu possibile rintracciarli su lastre fotografiche risalenti anche al XIX secolo. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get a... Argomento di aspri dibattiti fu, durante gli anni 60, se i quasar fossero vicini oppure lontanissimi, come indicava il loro redshift. Un forte argomento contro i quasar posti a distanze cosmologiche era che la grande distanza implicava luminosità così alte per le quali nessun processo conosciuto all'epoca, compresa la fusione nucleare, avrebbe fornito l'energia necessaria. Alcuni suggeriscono che i quasar fossero composti da antimateria, altri che fossero buchi bianchi. Questa obiezione fu rimossa con la proposta del meccanismo del disco di accrescimento, che oggi la distanza cosmologica dei quasar è generalmente accettata. Le immagini del telescopio spaziale Hubble di varie quasar permisero negli anni 90 di scoprire le galassie ospiti di questi oggetti, fornendo così una prova decisiva per l'inquadramento di questi oggetti nei modelli unificati delle galassie attive. Qui finisce l'almanacco, un saluto a tutte e tutti e soprattutto alle figlie e ai figli delle stelle. È finita la commedia.